Usini, Tonino di Usini, poi c'era Poncio Pilato, poi c'era anche Mario Mao, e Gian Maria, insomma parlavamo noi sempre, non siamo mai spariti, mai. Sì, c'era poca gente, peggio di adesso, però non ce l'abbiamo sempre. Avanti, Roberto. Ehi, hai cosa? Bacchisio, non Bacchisio, quello che è morto, Benito. Bacchisio è quello che è morto, Bacchisio, sì. Anche lui, da tanti anni. E subito dopo di me, era arrivato anche Bacchisio. Mi è piaciuto tanto, peccato, perché Bacchisio era anche lui una di quelle persone squisitissime, veramente. Un'ottima persona, educata, poi eravamo anche molto, ma molto amici. Perché veniva sempre a trovarmi, ogni pochi giorni veniva a trovarmi anche a fare in Amelia. Avanti, vabbè. Non ti dimenticare di Vittorio Laverde e di Gabino Passero. Ne abbiamo già parlato poc'anzi, Tonio Laverde e Gabino Passero. Tu pensa che Tonio Laverde, buon'anima, mi ricordo benissimo come se fosse oggi, è appena uscito il 140, lui è andato e se l'ha comprato. È passato, credo, da Betaverde, da Dino, come hai detto tu, che io non mi ricordavo il nome, e l'avevano fatto modificare subito. Incredibile, perché ha fatto ritirandolo dallo spedizionale, è venuto da me dopo che era appena passato la Betaverde per fargli una modifica. Subito mi ha fatto laggiù, guarda cosa ho fatto. Infatti subito dopo me l'avevo comprato io, mi ricordo, era compreso anche l'alimentatore, era un ottimo apparecchio allora, anche qua poi me ne sono disfatto, eccetera eccetera. Avanti, vabbè. Ehi, hai coso, questo Adriano è grandicello di persona, non è piccolo. 58 anni c'ha, cioè, 58, l'età di Antonello Aici, c'è. È molto amico di Natalino, voce giù. Che è molto amico di Natalino, Adriano è stato insieme con Natalino. Sì, beh, abitavano, cioè dove c'era il laboratorio Natalino c'erano pochi chilometri, insomma, da fare, ecco, erano lì, capito? Io quando sono arrivato a Sassari, l'attore l'ho accompagnato io a comprarsi quella radio da Mario Notari, ok? Perché avevo preso il 757, la prima serie 757, senza GX, GX2, 757, mi era piaciuto, poi aveva più di quelli, aveva 140, se l'ho comprato il 140, io dopo un paio di mesi ho venduto il 757 a Nino Torre Bravo, Annino il panettiere, o pizzaiolo, chiamatelo come volete, Nino, quello che è il sardo, e ho iniziato col K, quindi io sono partito nel 1983 col K, dall'83 a oggi ho sempre avuto K27. Sì, è vero, anche quello, Robert, anche quello, Mario Notari, cioè M2, anche lui era un vecchissimo CB, allora, ma ormai ci manca oltre 40 anni la frequenza, e poi si aveva aperto questo negozio lì, alle parti alte di Cappuccini, là, Viale Trento, in quella zona, una traversa di Viale Trento, e dunque poi però non si è fatto più sentire. Sì, me lo ricordo benissimo questo particolare, l'avevo appena ritirato, è andato e subito l'ha fatto fare questa modifica da Dino Betaverde. E vabbè, grandi personaggi di allora, tantissime persone che purtroppo tante ormai sono scomparse, non ci sono più, e questo mi dispiace molto. Avanti, Roberto. E invece tra i due radioamatori, Marco e Coso, e Walter, chi era più anziano? Io da quando ero ragazzino vedevo le antenne di Marco, forse dei radioamatori, di quelli, a parte quello anziano, uno dei più anziani, Marco. Dici, cosa dici, Claudio? Marco è entrato un po' prima di Walter, Marco è entrato un po' prima, ma non solo, di 27, anche come radioamatore mi sembra che sia un anno prima. Te lo ricordi tu giù a Marco come CB? Certo che me lo ricordo. Aspetta che mi ricordo anche il nominativo, se mi viene in mente, perché anche lui aveva un nominativo di CB, che non me lo ricordo, la verità, io, vabbè, ormai già da anziano e dunque sto perdendo un po' di memoria. Avanti, tu te lo ricordi, Claudio, come si chiamava Marco prima, come CB? Aveva una malattia particolare, poi ci aveva messo Scorpio e me ce l'ha tenuto sempre, però io lo conosco da quando mi trovo a Carso, quindi, ma non so, ha avuto anche altre postazioni, però diciamo che è abbastanza anziano anche lui. Sì, beh certo, è molto anziano, di frequenza è molto anziano, di età 9 ne diviso 20 anni. Glielo dico come minimo, ma comunque questo è un altro discorso, no, ma di frequenza è molto anziano, sì, uno fra i primi è assolutamente. Non mi ricordo come avevo conosciuto Walter, io me lo ricordo, allora abitavo nell'altra casa, ma sempre qui nella zona di Ripunti. Un bel giorno sento il campanello della porta, apro e c'era questo ragazzo, un ragazzo che avrà avuto 17 anni, forse anche non ce l'aveva, non lo so di preciso. E chi era? E te chi sei? Cosa vuoi? Fatto, dice io sono Walter. Ah Walter, sì, vieni, ho fatto entrare. Ecco, così ho conosciuto la Walter, io ero. Era venuto a casa a trovarmi e lui aveva scoperto dove abitavo ed era venuto a trovarmi, anche perché in quel periodo c'erano tanti altri CB, Giuseppe Marco su tre, Ripunti, poi c'era Bigodina, Marinella Bigodina, insomma ce n'erano diversi qui a Ripunti allora, e lui è venuto a trovarmi, Walter, e mi ha fatto piacere. Vai Robè. Oh, io mi saluto, non le prendo più, adesso devo fare altre cosette, ciao. Anche io qualche minuto rimango, poi vado via. Ciao Claudio, ci sentiamo, vai. Ok, ciao qua, ciao, alle prossime, dai, grazie ancora per la chiacchierativa. Bei ricordi, Robè, bei ricordi, veramente. Oggi invece siamo ridotti a pochissime persone e difficilmente ci riusciamo a incontrarci in frequenza, perché magari se ci sono io magari non ci sei tu, o viceversa, e quando si fanno certe cose a livello di una o due persone, tre persone massimo, non di più. Per cui oggi, strano, non ho sentito Natalino, evidentemente anche lui si sta stancando, visto e considerato che ormai c'è pochissima gente. Sì, vabbè, bisogna vedere, Mari, sta impegnato, oh, c'è anche caldo, Mari, dove sei? E dimmi una cosa, io quando ero piccolino, proprio un ragazzino piccolino, 12-13 anni, sentivo sempre nominare da gente, come si chiamava? Lui era già la CB, io ero piccolino perché amavo, gli dicevo, comprami il barattino, come lui non me ne ha voluto mai comprare. Una volta siamo andati alla GBC e c'era questo amico di babbo, che adesso è morto, buon'anima, posso dire anche nome e cognome, Mario Carminio si chiamava, di una bravissima persona, e lavorava all'Arena dove vedevano i ricambi. E lui era un CB da vista, da sempre, raccontava sempre, e sentivo il suo discorso, ero entusiasta, ammirato di questa persona, e sono riuscito a convincere il vice da babbo a prendermi il baracchino, se mi ha detto compra il pace 123, la KB23. E siamo andati alla GBC a chiedere, quando ha visto il prezzo costava un sacco di soldi, l'ha portata da adesso, si pare 95.000 lire, che sarebbero io penso non meno di 400 euro di adesso, l'ha portati, come ha detto vai lascia perdere babbo. E lui parlava sempre, c'era questo Tucatucca, te lo ricordi? Beh certo che me lo ricordo, ma sempre quello c'era anche il padre di Tucatucca, c'era che parlavano a Maracchino, poi c'è stato anche il fratello, per cui io con Tucatucca ho fatto anche tanti lavoretti, ho fatto oltretutto, lui è molto più giovane di me, comunque sia ben chiaro, ma lui è un vecchissimo CB, proprio uno dei vecchi, e devo dire che si intende anche di elettronica, visto e considerato che ha fatto anche lui il corso del radiotecnico e infatti era bravo a riparare i baracchini. Poi tra l'altro quando aveva necessità c'è il fratello che di professione è proprio radiotecnico, proprio TV eccetera, per cui non c'era problema. E aveva il laboratorio il fratello, non lui, lui aveva un angolino lì in quel laboratorio del fratello in via Fredoriani, in quella zona lì di via Fredoriani a Sassari, non so se c'è ancora, ma suppongo di sì, boh, non te lo so dire, ma era, adesso è grandetto sicuramente, o in pensione, non lo so, per caso Tucatucca, e anche lui era un vecchissimo CB, ma cosa ti ho detto poco fa? Mario Carminio si chiamava Tore Carminio e sicuramente l'avrai conosciuto perché questo era fissato con i baracchini, sempre ne parlava di cose, di queste cose. penso che di età quest'uomo sia più grande di te, sarebbe stato più grande di te, perché era poco, poco più piccolo di Babbo. E lavorava, lui ha lavorato una vita all'Arena, tra l'altro dell'Arena, vicino ai Vigili del Fuoco. Sì, no, ma l'ho conosciuto benissimo, in quanto Tore Calminio abitava sopra all'appartamento dove abitava mamma, però del rimpetto. Dove abitava mamma erano quattro piani, no? E lui, dunque uno, due, tre, quattro, vabbè, quattro considerando il piano terra, diciamo, dai. E lui abitava sopra la famiglia, su Tore, ma credo che sia deceduto anche, penso che sia mi credo che abbia sentito tempo fa che ormai era scomparso. Non so se tu ne sai qualcosa di più di me. Sì, almeno 10 anni che è morto, carissimo amico di Babbo, proprio amici, a me mi trattava come un figlio, era una persona squisita. Poi dall'Arena era andata a lavorare a Coso, alla UPA, cioè era uno di, diciamo, di quelli capoccia della UPA, perché mio padre è stato uno dei fondatori, e lui era uno di quelli, nel senso che dava, che gestiva tutto, lui insieme a Signorenza, erano loro due i capoccia che gestivano tutto. Sì, ci conoscevamo molto bene, ma anche con fratello, sì, ti puoi immaginare. Adesso non mi ricordo, ma mi sembra che avevo fatto addirittura il capo condominio nel palazzo dove appunto abitava mamma. Io comunque ho qualche anno, ho più di come di lui. Però lui purtroppo è stato sfortunato, credo che si fosse ammalato, non lo so, questo non te lo so dire. E mi avevano detto, parlando tempo fa, forse stavo parlando con mio fratello, e mi aveva detto, Tore Calminio, dice, è morto. Io non sapevo niente, perché ormai ci mancò tantissimi anni da quella zona, abitava lì, in via Calogulinto, là abitava. Ma tu, scusa un attimino, di che zona sei tu, Giulio? Parliamo da bambino. Io sono di zona Santa Apollinare, via Santa Apollinare, all'età di 11 anni, poi mi sono trasferito al Monte Rosello Alto, molto in alto. Addirittura a livello di altezza come la chiesa di Via Federica su in alto. Io abitavo in via Calogulinto, abitavo dove abitava mamma, insomma mamma e babbo sono scomparsi, eccetera eccetera. Adesso abita mio fratello con la casa lì. Ma Carminio abitava a Centro Zurigo o sbaglio? Beh, questo non te lo so dire, io so solamente che dal 1953 la famiglia Calminio insieme a noi e a tutti gli altri ci eravamo trasferiti in quella casa, perché era una casa, una palazzina dell'Ina casa, capito? Dunque, perché poi ognuno si era riscattato l'appartamento, ovviamente, perché l'hanno dato anche a riscatto. So che è così, però era una palazzina che aveva costruito allora lì la casa e l'aveva data ai più bisognosi di allora, dai. Ok, va bene. No, grande persona, io ho un bellissimo ricordo, mi è piaciuto tantissimo, infatti quando è morto era brava proprio a me, da bambino proprio lui mi conosce da grande Zogunà, mi conosceva, ma mi trattava in un modo, poi ci faceva i regali, perché lui lavorava all'Arena, era commesso di lì, diciamo, capo commesso, ma ogni volta mi veniva sempre qualche regalino, qualche cosa me la regala. Mi ricordo sempre l'anno che Cagliari ha vinto lo scudetto, ti ricordi che davano, la Shell dava le medagliette, e lui ogni volta mi vedeva, siccome sapeva che io le collezionavo, vieni qua che te ne do una, quando facevo la benzina ti davano, non so, ogni 10 medaglie di benzina, non so quanto, ti davano una medaglietta, e dovevi compilare questa specie di quadretto in velluttino, e c'erano tutti i giocatori del Cagliari più l'allenatore, te lo ricordi? Certo che me lo ricordo, io avevo proprio un album praticamente, era dove c'erano tutte le fotografie dei giocatori, c'erano con tanto di bandiera, eccetera, eccetera, tutta la storia anche del Cagliari di allora. Certo che me lo ricordo, nel 1970 io ero anche grandetto, per cui io sono del 42, e puoi immaginare, insomma, qualche anno ormai ce l'avevo ed ero abbastanza grande da capire anche il calcio, eccetera, anche perché ormai giocavo già al calcio, ma giocavo a tuo padre praticamente, dai. Vabbè, lui più grande di me, d'accordo, però giocavamo insieme, che lui magari nemmeno si ricorda, nemmeno per sogno. Ha perso qualche colpo, l'ha perso, però prima già si ricordava la volta che eri venuto, parliamo qualche anno fa in officina, 5 anni fa vi siete salutati e lui mi ha fatto e beh Giovanni e lui già ti ha riconosciuto. Sì, sì, quello già me lo ricordo, lei è Puglia. E abbiamo preso cavallo assieme, glielo credo, e non solo con lui, con tutti quelli dell'epoca, dai. Magari io ero uno fra i più giovani, però siccome ho sempre avuto la passione per il calcio, ho cominciato da ragazzino a tirare calci e allora da quel momento ero entrato in squadra, eccetera, eccetera, e funzionava così. Guarda, domani se me ne ricordo ti mando una fotografia della squadra che hai nominato tu, non facciamo il nome che già mi hai capito, dove ci sono tutti i giocatori che tu hai conosciuto, da iniziare da Ettore Bindaccio a Guido come si chiama, Buffadori, tutta quella gente hai conosciuto là. Certo che li ho conosciuti tutti quanti quelli, adesso i nomi non me li ricordo, ma se io li vedo, vabbè, tante magari non ci saranno più probabilmente, lascia stare Ettore, vabbè, Ettore grazie a Dio già è ancora vivo, è diventato un bisonte, è bello grosso, eccetera eccetera, infatti quando cammina è lento lento, lui adesso la mattina va lì e si siede a Moccador, vive a Pascoli e trova gli amici a bere una birra eccetera, no? Guarda che quelle fotografie, bene o male ce l'ho anch'io, ti ricordi che mi avevi regalato il libro della squadra, mi aveva regalato dopo i 50 anni di attività, avevate fatto il libro e tu me l'avevi regalato e ci sono diverse fotografie di squadre complete, qualche cosa, come si chiama, Briciola, ti ricordi di Briciola? Sì, sì, però questo non c'entra niente col libro perché è una foto che mi hanno dato l'anno scorso, mi hanno dato Pistida, proprio ha detto il padre di Ciancio Pistida, te lo ricordi, Salvino, eccetera, eccetera, poi ci sono tutti questi, c'è quello Arcangelo Fui, se te lo ricordi tu, Pedro Blasco, Matera, Cime, tutta quella gente, te lo ricordi? Certo che me lo ricordo, Urigo, tutta la testa niente, Cime, Urigo, il portiere, i due fratelli, quello alto e quello più basso, che giocavano tutti insieme a me, giocavano in quell'era lì, certo che me lo ricordo, altro che me lo ricordo benissimo, non c'è problema, un certo Meduni, quello era bravo, era in gamba quello, Meduni era bravo veramente, un gran bel giocatore, e ce n'erano tanti, ce n'erano, e adesso i nomi ormai non me li ricordo più, però se li vedo, se li incontro le persone già me le ricordo. Io stavo parlando di Gabino Pistida, ma anche lui credo che sia morto, non lo so, Roberto. Sì, no, io stavo parlando, in questa foto c'è Salvino, ed è il padre di uno che lavora da noi, che erano tutti il fratello di Ciancio, di Antonello Pistida, tutta quella gente della università, eccetera, eccetera. Poi c'è quello che dice che è dentista, meccanico dentista, va nominalmente se si chiama Pira, ti mando la fotografia domani, se me lo ricordo, che ha colori, e sopra ci sono scritti i nomi di tutti, sono 12-13 persone, e ti farai due risate perché li vedrai, dicimi, vabbè da come intera. Ok, sì, beh certo, sì, e poi tra l'altro con la famiglia Pistida abitavamo anche vicino, abitavamo, lui abitava in quelle case tipo via Rossi, via Tisi, in quella zona lì abitava, e invece io abitavo in Piazza Novolento allora, la Piazza Novolento a via Tisi, e in linea d'aria erano se no 100 metri nemmeno, in linea d'aria, e su strada al massimo erano 200 metri, ma non ricordo benissimo. Poi Gabino poi per tanti anni ha lavorato anche dove abitavo io prima, di fronte c'era una panetteria, cioè un forno di pane, lui lavorava lì, lavorava per tanti anni, ha lavorato lì, la voglia, amico anche di persone che tra l'altro sono anche un po' imparentate con mia moglie, perché magari mia moglie gli aveva credimato a quest'altra persona, non ai Pistida, no, ad altre persone, a una famiglia doppia in poche parole, gli aveva credimato il la figlia o il figlio, boh, non mi ricordo bene, comunque così. Sì, no, ce ne sono passati da noi di gente, dai, perché poi è nata lì al centro studio, tutti, non ce n'erano molte di squadre, per cui tutti andavano a finire in Chivia a giocare. E te la mando con la foto che è carina, perché l'ho fatta vedere, non so se tu te lo ricordi, a Bassano Campo, su conosciuto là. Sì che l'ho conosciuto, tutti li ho conosciuti. Sempre quello ho conosciuto anche tutta la torre, se, la torre quando giocava i Serie C, mia addirittura, tutti i grandi giocatori, tipo Campos, Sebastiani, Coluso, tutta quella gente lì, li ho conosciuti tutti, li ho conosciuti, anzi ci giocavo contro di loro, li allenavo, perché la squadra dove giocavo io, facevamo la partita infrasettimanale alla torre, se proprio per allenare la squadra, e infatti poi c'era Bisiacchi, quello lì è stata una bestia perché mi aveva dato un calcione una volta, mi aveva fatto male al malleo, lo sono buttato mezz'ora con il catto per terra, infatti l'allenatore l'ha chiamato, poi l'ha mandato nel spogliatoio e gli ha detto vai, vergognati, dice questo ragazzino, perché io ero un bambino, cosa avrei già avuto se non 16, 17 anni, forse non c'era, perché l'avevo fatto due volte consecutivamente, e un turno l'avevo fatto, lui non l'ha sopportato, mi ha dato un calcione, mi ha dato, e allora l'allenatore se ne è accorto di quello che ha fatto, l'ha preso e l'ha mandato anzitempo negli spogliatoi, gli ha detto vergognati, questo ragazzino si sta facendo un favore a te, perché tu sei un professionista, lui invece è un amatore del calcio, per dirti no, questo è Bisiacchi. Allora, purtroppo, tu li hai conosciuti anche a Vito Caso? Già lo credo, tu pensa che c'era una specie di rivalità, non fra me e lui, no, io e Caso, io e Vito eravamo grandi amici, no? Non c'era problema, figurati, lui faceva di mestiere il bianchino, io, e io facevo allora un altro mestiere, e poi sono passato a fare falegname, eccetera, eccetera, intanto era il nipote di uno che lavorava con me, prima di tutto. E poi lui giocava con una squadra e io con un'altra. Lui c'era gente che diceva che siccome avevamo tutti e due lo stesso ruolo, cioè centromediano metodista, no? Non come oggi c'è il libero, c'è lo stoppere, eccetera. Ma prima c'era il centromediano ed era quello, il centromediano metodista. E c'era quello che diceva, no? Dice è più forte Caso, c'era quell'altro che diceva no, è più forte Sedda. Dai, come succede sempre nello sport? Ma io e Vito eravamo grandi amici, È morto, già lo sai. Sì, lo so, poi c'era Fesoro, anche lui, era della stessa generazione, anche lui, ero molto amico anche con lui, Busia, non so se tu l'hai mai riconosciuto, Busia, Geometra, e tanti altri, tanta gente che sapeva giocare veramente al calcio. Anche Antonio Manuta, allora, il compagno di Babbo, hai conosciuto. Manuta, e la Buglia, la Manuta, quello delle gomme, in poche parole, dai, ho capito. Il padre di Giuni, grande persona, lo stesso, il compagno di Babbo, ma a me lo stesso mi viziava, quando eravamo piccolini ci vide, lui aveva il coso che si chiama quella via dei gremi, il coso delle gomme, mi pare. Non so che via era, ma mi sembra che proprio quello, via dei gremi, credo che sia, sì, penso che sia quella la via. Lo conoscevo benissimo. No, ma poi ti era spostato in via Sant'Agostino, poi era. Via dove c'era la bolla, dove c'era il fornitore lì, dopo Santa Maria in alto, dove c'è cosa, dove c'era la polizia prima, non c'era il fornitore, e lì andava con il fornitore, dove era lui, si era spostato, poi lì cosa ci volevano, 300 metri, e mi ricordo benissimo, passavo tutti i giorni, li passavo, perché la sera io, dopo il lavoro di stabilimento, andavo in un magazzino con un amico e facevamo i lavori per conto nostro, facevamo, no? E dunque passavo sempre lì, davanti a Manunta. Guarda, noi in officina siamo molto amici, Tore Urtu, non so se l'hai conosciuto, un omone alto, che anche lui nelle giovanili della Torre ha giocato, più o meno penso sia il tuo coetaneo, e lui ha una memoria storica, che è un insegnante universitario, non so se l'hai conosciuto. Ma li ho conosciuti tutti, Robert, solo che adesso non mi ricordo chi può essere, però me lo ricordo, il nome me lo ricordo benissimo, però se mi dici che è questo, se lo vedo non me lo ricordo, magari poi me lo ricordo vedendo, posso associare il suo nome a quella persona, Allora, come nome me lo ricordo benissimo. Vabbè, dai, però siamo tranquilli già. Ti faccio vedere un po' di libri, dico, io sono molto appassionato a tutte queste cose, delle vecchie squadre, le cose, personaggi storici sassaresi, io ho un po' di libri, riviste e documentazioni, perché me ne portano continuamente, ogni tanto mi riguardo di cose, di personaggi. Già quando capito ti faccio vedere delle cose che tu sei molto più grande di me, magari ti danno, ti ravvivano l'infanzia. Dai. Però Giulio, adesso devo lasciare, che è ora della pappa. Ci sentiamo quando vuoi passa e quando ci troviamo qua in radio, se proprio piacere ascoltarti. Ciao ciao, cuore da parte mia. Ok, ciao ciao Robè, grazie a te per la chiacchierata, dai, ci sentiamo. È stato un piacere, dai, abbiamo fatto quattro chiacchiere tranquillamente, è stata facile. Alle prossime, sperando di rincontrarci molto presto, sai, sia in verticale che in frequenza. Ciao Robè, ciao, alle prossime. Ciao Claudio, se sei ancora all'ascolto, ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Hola, hola, hola. Che è avanti? Morino, papolino, andiamo, che? Bobone, muore, andiamo, che? Ehi, Alu! Oia, poco fa stavo cantando, salvo. E dove? A casa. Adesso ti faccio vedere le nuove chicche. Ma cosa pensi che io non sia a cantare? Una di te posso perdere l'amore da Costantino. Mi ho mandato una foto, lui. Oh, cazzo. Viste le hai? Sì, sì, viste. Muove tutte e quattro, ne fanno un barazzo in occhi. Ma le tue sono? Eia, sono le mie sì. Ma i gusti? Cappa, a seconda mano li ho prese, però già vanno bene. E adesso appena finisco con il dentista, anche mi faccio un buon impiantino, va. Di nave buone. Sì, c'è un villaggio di nave. Cappa. No, io ho la verità, ti ho fatto un pensierino e me ne sono prese. Qualche cosettina c'è da farli, ma io c'ho un tecnico che c'è il che non di dietro, che è un pochettino, un pezzo di bicicletta per andare bene. Ma io li porto da Gavino, me le faccio mettere a posto. Di quel che no, che non sta funzionando tanto bene. E via. Hai cazzo di buoni di nato? Ma è una cazzata, sarà una ventina di euro. No, può fare un impianto. È un impianto buono, nuovo, di zecca. Tu pensa che i buoni, quelle che c'ha Ferrari, sì, che sono ottime come casse. Tu pensa che, cioè, 260 euro a caccia Vivone, i capi, ci vogliono i capi, e sono i gatto altri 30-40 euro di gabe, ci vogliono i stativi, altri 40 euro, dipende cosa vuoi, altri 40-50 euro. Da voi devi cominciare un mixer, 200 euro di mixer, sì, quindi buoni di na. E 2000 euro non bastano? Cosa? 2000 euro non bastano? Sì, 3000 euro te lo fai anche bello, te lo fai. Grazie, quanto? Cappa. Dai, bianco per me che io vado a cucinare. E tanto a dopo, ciao. E ciao ciao. E qua! Ha già appena buccio la gozza. Leva buddì, fa la bassa asciutta. Io siamo andati al mare. Siccome mi porto sempre il panino appresso, no? come si dice, non me l'ho mangiato, ho lasciato con quello, pezzi di melone, due birrette, e tu bacchettato. Capa, io mi ha già portato abbastanza fama. E ci magna. Andiamo, andiamo, che... Capa. Se vogliono il voto di zocco. Allu. Cosa? Se vogliono il faccio di zocco. Ho capito. Ho detto che se vogliono il faccio di zocco. Vabbè, che tanto. E se dovevo fare il zocco? A voglia, gli allai la testa dura. Adesso sto controllando un amico, gli ha fatto la cosa qua, cioè, un po' di musica gli ho messo, mi salivo io. Cappa. Ehi, ma va però, se unica che cosa mi devi dare di name? Eh beh, secondo te, gratis. Io mi ha giovato con guru. E non male a tutti i pappagalli. Cazzo. Anche quando posso dare, mi posso pagare. Cappa. Sto imparando anche a cantare lui, lo sai? Sì, però pure già mi arrangio, dai. Cappa. Ma l'ho scoperto pochi giorni fa. Cioè, l'ho scoperto un mesetto fa, che tipo di voce c'ho. Non l'avevo mai scoperto, la verità. E io so cantare, sì. E a voi se canta. Ho scoperto che c'è una voce a tenore. Chi tu? Eia. E vi siete ridotti, non lo sapevi. Cazza. Già ti posso sentire perdere l'amore, Mari, non ti preoccupare. Quando sei a Costantino, o a caccia a canzone. Lascia di... Ha giurato una cosa, la canzone a signor Cassano, ha giurato una lacrima sul viso. Va, figlio di Dio l'hai fatta. Già, è uscita già, e forse sì. Che tanto una delle due, ti mi sono nascoste, mi ha dato... Non lo sapevo lui, non l'ho mai cantato io, però mi scia il saggatto di Bobby così, quando ero imbriaco, ma certo, ma che strano, questo sono riuscito a scoprirlo. Infatti io ti nasco solo con la bicchiera bacio. tu già canti bene, non ti preoccupare. A me piace cantare, dai, già sassarese e fuce soprattutto, ognuno canta con tutti i bagagli piatti. Sì, no, anche a me sassarese, italiano, mi piace molto, l'inglese non lo so, ma devo imparare. Oggi magari organizziamo a tu. Se volete venire con Sara ci andiamo da allora. Non è che mi piace assai andare in Cirubo. Perché? Così. Vabbè, andiamo un giorno. Non c'è problema. Fabri sei un amico, eh. Vabbè, se un amico va bene. Se quello lo sgarra ti manda via, eh. No, lì non dico a te, a chi sgarra. Già lo so già come ti è fatto. Io mi sono sempre comportato bene, la verità. Però è un po' irruente. Ah, sai che ho scoperto cosa è successo l'altro giorno? Una cosa... Ha fatto bene a incazzarsi e a mandarli via a calci in culo. Sono cose inaudite, sono. Non so se te l'hanno detto. A chi? Al circolo. Cosa è successo? Le aspetto il al telefono. Mito mi ha dato il messaggio. Aspetta la sposta. Te l'ho mandato, mi. Una cosa molto grave è successa. Molto, molto, molto grave. L'ha pigliata a calci nel culo, ce li ha mandati via. Chi ci dirà di tutti, Antonio? A fai bella curva te la mandate, non è giusto. Look. Gata la ciappa di Costantino in bagno, la ciappa di roba la macchi. 4 o 5 in bagno. Cazzo, ti bava una cosa io c'ha di bare, bebè. Andiamo, vai, andiamo. Aspetta che sono al telefono, lui. Attenzione, binario 10, coppa. Hola.